in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come sempre cominciamo dal Sole 24 Ore che, come quasi sempre succede di domenica, a meno che naturalmente non ci siano notizie tanto importanti da meritare proprio l'apertura, si concentra su quello che noi chiamiamo Rating 24, cioè l'analisi di alcune misure annunciate o già in via di realizzazione e sulla loro fattibilità. Qui lo spunto oggi è il piano nazionale e il DEF, il documento di sostanzialmente delinea il budget dello Stato che verrà pubblicato nei dettagli in aprile. Ci sono molte cose che si possono fare, tra queste il famoso cuneo fiscale contributivo, il gap che divide sui costi di energia, che divide i costi dell'energia per le aziende italiane rispetto alla maggior parte di quelle straniere, e poi tutti i cantieri ancora aperti. C'è un editoriale di Giorgio Santilli che fa riferimento anche alle parole dette ieri dal presidente Sergio Mattarella: l'amore per il paese davanti a tutto, nel senso che questo è un paese, lo sappiamo, lo ripetiamo sempre, che ha bisogno di molte riforme. Per fare le riforme importanti ci vuole una condivisione delle forze politiche, perché è questo, forse in questo senso, proprio mentre sia il centrosinistra, soprattutto il centrosinistra, ma anche il centrodestra ha dei problemi al suo interno, qui l'appello di Mattarella, appunto, il paese davanti a tutti. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche la consueta lettera al risparmiatore della domenica. Questa domenica poi la trovate a pagina 16, dove, sapete, Vittorio Carlini si concentra su un titolo quotato per analizzarne il bilancio. Adesso poi è proprio la stagione in cui vengono approvati i bilanci del 2016 delle quotate, con anche tutti gli indici di redditività. Questa settimana Vittorio Carlini si dedica a Brunello Cucinelli. Il titolo gioca le sue carte nel business dell'e-commerce. Vi segnalo anche, poi trovate tutto a pagina 19, un articolo di Francis Fukuyama, economista ma anche in un certo senso politologo e sociologo, autore di quella famosa frase dello scontro di civiltà, ma anche del nuovo scenario. Il libro del 1992, il suo libro più famoso, e che quindi anticipava anche molte delle conseguenze della globalizzazione. Ora però questo articolo si concentra sulla famosa neologismo del 2016, la post-verità, che Francis Fukuyama definisce un pericolo per le democrazie. Vi leggo le prime righe, poi trovate il resto a pagina 19. Uno degli sviluppi più sorprendenti degli eventi politici così fuori dal comune che si sono verificati appena l'anno scorso è stata l'emersione di un mondo post-fattuale, in cui quasi tutte le fonti di informazioni autorevoli vengono messe in discussione e contestate con notizie contrarie di dubbia qualità e provenienza. Ecco, la definizione di post-verità è proprio questa. Corriere della Sera, in un certo senso l'apertura è dedicata allo scontro tra Trump e Obama, uno scontro riacceso da Donald Trump, che con la sua modalità di comunicazione preferita, cioè dei tweet, che sapete possono al massimo avere 140 caratteri, quindi a proposito di post-verità, difficile argomentare, difficile anche replicare, se, soprattutto quando si tratta del Presidente degli Stati Uniti. Trump ha detto che ha saputo che Barack Obama lo ha spiato nelle sue Trump Tower, e da qui nuovo Watergate. E qui questa curiosità, che tutte le volte che sento usare questa parola, perché Watergate era proprio un albergo, si chiamava così, letteralmente in inglese vorrebbe dire la porta dell'acqua. Dopodiché però da quell'episodio di tanti anni fa, che portò poi anche prima alla rielezione, ma comunque poi alle dimissioni di Richard Nixon, che fu accusato di essere dietro a questa operazione di spionaggio da parte dei repubblicani al quartier generale dei democratici, che era appunto in questo albergo chiamato Watergate, da allora, ma lo fanno anche gli americani, si usa il suffisso gate per indicare un qualsiasi scandalo, quindi gli esempi insomma si sprecano. Questa è in sostanza l'apertura del Corriere della Sera, che però mezza pagina inserisce anche le novità sull'indagine Consip, perché, come avete sentito anche nel GR, citando la fuga di notizie esagerata che c'è stata su questa inchiesta, sono state tolte le indagini al nucleo operativo dei carabinieri per quello che il Corriere della Sera definisce un blitz dei PM. La Repubblica ha sostanzialmente la stessa apertura, Consip e lite tra le procure, basta con le fughe di notizie. In questo caso però la fotonotizia è una foto di Palmira con un elicottero che sorvola uno dei tanti templi distrutti dall'ISIS in questa città che era anche se lo è forse meno di prima, è un patrimonio architettonico dell'umanità. È un reportage dalla Siria fatto appunto da Alberto Stabile, che è andato a Palmira. Molto interessante l'articolo di Roberto Perotti, che sapete è stato commissario per un po' alla spending review del governo Renzi, si è poi dimesso. Non dire in polemica, direi che non è corretto. Lui semplicemente si è dimesso dicendo: capisco che la politica è l'arte del compromesso, io sulla spending review che mi è stato chiesto di mettere a punto non posso scendere a compromessi, quindi prendo atto di questa impossibilità di attuare il mio piano, le mie idee, e mi dimetto. Roberto Perotti è un economista, insegna alla Bocconi, e ora siccome è tornato d'attualità il tema dei vitalizi, che vengono, lo sapete, calcolati con un sistema retributivo e non contributivo, cioè a una certa età i parlamentari percepiscono questa pensione, che però è un po' diversa dalla pensione, è sicuramente diversa dalle pensioni che avremo noi d'ora in poi, che saranno tutte col sistema contributivo, cioè riceveremo tanto in proporzione a quanto abbiamo versato, e non retributivo, cioè in proporzione a quanto guadagnavamo prima di andare in pensione. E questo tema è di attualità perché, come sapete, a settembre scatterà questo privilegio per tutti i parlamentari, anche quelli di prima legislatura. Molti pensano che far slittare le elezioni sia legato anche a questo, e comunque il tema suscita sempre discussioni, e vi suggerisco appunto l'analisi alle pagine 8-9 di Roberto Perotti, vitalizi parlamentari, ecco come cambiarli. Ci sono tre modi per risparmiare davvero fuori dalla retorica. La Stampa invece titola sullo scontro tra Grillo e Renzi, Grillo attacca Renzi sul padre, lo scontro diventa personale. E poi vi segnalo a pagina 7 un colloquio di Amedeo La Mattina con Emiliano, governatore della Puglia, che è un avversario di Renzi alle primarie per la guida del Partito Democratico, ma anche di Orlando, l'attuale ministro della giustizia, che è il terzo candidato. Secondo Emiliano molte colpe sono di Orlando, e io mi chiedo come Orlando in questi giorni, con quello che è successo in Puglia, essendo la Puglia la sua regione, non si esprima su quello, che mi sembra un tema su cui avrebbe più cose sostanziali da dire, che non invece ancora sulle polemiche all'interno del PD. In ogni caso, questo è il tema del colloquio, che trovate poi a pagina 7. La fotonotizia è invece un reportage dalla città di Almere, a 30 km da Amsterdam, dove da 7 anni trionfa il partito della destra xenofoba di Wilders, che tra 10 giorni è anche candidato alle elezioni olandesi, alle elezioni politiche, e per il quale tutti prevedono un forte aumento dei voti. Olanda avanza la destra anti-immigrati. Mentre alle pagine 2 e 3 trovate un'intervista del direttore della Stampa, Maurizio Molinari, a Barzani, il leader libico: l'Iraq ormai è finito, noi curdi avremo uno Stato. Questa è naturalmente la questione dei curdi e del Kurdistan, che viene spesso definito come l'unico paese senza una nazione al mondo, perché sapete che i curdi sono sparsi in realtà per 4 paesi, sono al centro dello scacchiere geopolitico dell'area medio orientale, non soltanto, anche europea, e quindi qui alle pagine 2 e 3 appunto si cerca di fare un po' di chiarezza, ma naturalmente questa è solo una opinione. Poi la questione curda è intricatissima e viene da molto lontano. Il Fatto Quotidiano si concentra, come è prevedibile, anche perché il Fatto Quotidiano è stato tra i primi giornali a ipotizzare anche un coinvolgimento di Tiziano Renzi in questa inchiesta Consip, e poi sono arrivate le conferme. L'amico Vannoni inguaia Renzi, mi disse stai attento a Consip. Questo manager avrebbe dichiarato ai ai PM che di queste cimici messe alla Consip per capire se c'era appunto delle malversazioni, Lotti riferì, oppure forse dice il suo braccio destro, e già qui i ricordi si confondono, le dichiarazioni sono piene di periodi ipotetici, però appunto secondo il Fatto Quotidiano in sostanza è un nuovo guaio per Renzi. L'Unità a questo punto, come sempre ci si aspetta magari un guizzo, visto quello che sta succedendo, questa guerra fratricida all'interno del Partito Democratico. Il titolo è PD, nostro bene comune. Orlando ottiene il sostegno di Cuperlo e dei Lettiani, ecco come ricostruirà il partito. Il ministro della giustizia di Orlando sempre dice a Lotti: resta al tuo posto. E poi alle pagine 2 e 4 trovate alcuna selezione di lettori, di lettere dei lettori dell'Unità sul congresso. Il Messaggero, come Repubblica e come Corriere sostanzialmente, si concentra sull'inchiesta Consip. Romeo stoppa le fughe di notizie, la Procura di Roma revoca l'incarico sull'inchiesta al nucleo ecologico dei Carabinieri e spunta un altro pizzino dell'imprenditore in carcere su presunti pagamenti a Tiziano Renzi. Il consueto intervento di Romano Prodi alla Domenica sul Messaggero è dedicato a quello che viene definito l'accordo che verrà tra Cina e Stati Uniti. Sapete che una delle prime decisioni di Trump è stata quella di lanciare dei segnali abbastanza aggressivi alla Cina per quanto riguarda i rapporti economici. Ci sono però dei trattati da siglare, ci sono degli accordi da rispettare e che naturalmente hanno come obiettivo ideale il libero commercio. Vi segnalo anche, richiamata in prima pagina, un'intervista di potremmo definire una Highlander, che eccolo che ritorna, Pier Ferdinando Casini, che dice: c'è un ruolo per una grande area di centro, dai moderati può venire lo stop al populismo, ai populismi che vediamo nascere appunto in tanti paesi europei e secondo Casini anche in Italia. Ci lasciamo però un attimo per una breve pausa e sentiremo anche gli aggiornamenti su questo pazzo meteo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori che così presto al mattino di domenica stanno già mandando messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp. Ringrazio l'ascoltatore che dice: il Watergate non era un hotel ma un residence, in realtà era entrambe le cose, ho controllato adesso mentre durante la pausa, e soprattutto ho scoperto che non lo sapevo che l'architetto che ha firmato il progetto era un italiano, Luigi Moretti, e che l'azienda che l'ha costruito è un'azienda italiana che si chiama SGI, e questo parliamo degli anni 60. E ringrazio anche l'ascoltatore che riferendosi al Kurdistan dice: non un paese senza nazione ma una nazione senza paese, giusto. Torniamo alle prime pagine dei giornali. La Verità si dedica al caso Consip, e anche in questo caso con le novità sull'indagine, ma vi segnalo soprattutto un articolo che poi trovate già a pagina 7 di Giancarlo Perna. Parole secondo me perfette, un ritratto di quelli perfetti di Giancarlo Perna, e questa volta Giancarlo Perna si occupa di D'Alema, definito l'ultima rivincita del rancoroso che gode solo se c'è chi perde. Il Manifesto, in basso a destra, e la foto è quella di Trump fotografato di spalle. Ieri abbiamo visto queste dichiarazioni, questi tweet su un presunto spionaggio da parte di Obama e del suo staff al quartier generale di Trump, che durante la campagna elettorale, specie nelle ultime fasi, era nella Trump Tower di New York. E anche il Manifesto è l'unico che mette con tanta enfasi questa notizia in prima pagina, anche l'ultima dichiarazione di Trump come misura per arginare l'immigrazione clandestina dal Messico. L'idea è quella di separare i figli dei migranti illegali dai loro genitori. Spesso appunto abbiamo sentito prima nella controcopertina come no, nel GR come a volte i migranti ci siano migranti minori, quindi che sono bambini, adolescenti. Spesso in Messico le madri cercano di attraversare il confine con i figli e Trump vuole separarli. Questo era quello che ha detto ieri, sempre in modo così molto da slogan, e non si capisce bene poi come si potrebbe fare in pratica. si potrebbe in pratica fare. Libero, dittatura giudiziaria, secondo Libero, tira aria di una nuova Mani Pulite. Vi segnalo l'appunto di Filippo Facci, la rubrica di Filippo Facci, si chiama La coscienza di zero e parla di quel tema delicatissimo e che è tornato di grande attualità e che viene finalmente discusso, che è quello del testamento biologico e del fine vita. Scrive Filippo Facci: buon divertimento, perché il testamento biologico approda finalmente alla Camera. È quella legge basilare, manca solo in Italia, che ci consente di prestabilire una sospensione delle terapie se diventassimo vegetali come Eluana Englaro. Ricordate tutti il caso di Eluana Englaro e della battaglia di suo padre per appunto poter interrompere le cure senza commettere un reato. È un tema che riguarda le scelte personali e il Parlamento avrebbe il dovere di recepire la volontà popolare, che è strafavorevole, e di legiferare nel senso più democratico del termine. Ma molti politici non badano alla nostra volontà, badano a quella del Vaticano. Ci siamo già passati e ora come allora tanti parlamentari dicono che voteranno con una libertà di coscienza sempre sbandierata a parole. Ma agli effetti è mancata la libertà e anche la coscienza. L'oscillazione tra le convinzioni personali e la disciplina di partito ha mostrato comiche anche notevoli, con pressioni sui singoli e coscienze precettate. Ecco, e per cose come queste, se il Parlamento, peraltro stipato da pigia bottoni senza storia né nerbo, ha perso la sua famosa centralità. C'è dentro un'umanità che spesso non è neanche capace di dare una forma a quello che pensa, di schiacciare un bottone come le pare su un argomento che riguarda la vita sua e dei suoi cari. Quindi buon divertimento e tenete d'occhio la galassia di centrodestra in attesa del voto. Si inventeranno qualsiasi cazzata, cito testualmente, pur di azzerare la propria coscienza e di sabotare quello che pensano. È naturalmente uno spunto di riflessione, non sottoscrivo tutto quello che dice Filippo Facci, però sicuramente questo scudo della libertà di coscienza ha frenato la discussione in Parlamento appunto di una legge che in molti altri paesi c'è. Poi uno può dire che sono tutti gli altri che sbagliano, però di fatto appunto noi abbiamo un vuoto legislativo sulla fine vita e sul testamento biologico. Il Giornale apre sull'inchiesta della Consip e la definisce un'inchiesta taroccata. Troppe fughe di notizie, la procura toglie le indagini agli uomini del PM Woodcock. Passiamo alle pagine interne dei giornali. Dal Sole 24 Ore, la copertina di Imprese e Territori è dedicata alla green economy. È un tema, per tornare a Trump, anche molto dibattuto, naturalmente quello in generale della cosiddetta appunto economia verde, ma in generale della sostenibilità ambientale del nostro sistema di sviluppo. E secondo appunto questo reportage di Laura Serafini, che prende spunto dalla visita di ieri di Gentiloni al polo high tech Enel di Catania dedicato alle soluzioni avanzate per le rinnovabili, la green economy può essere la forza dell'Italia. E poi vi segnalo la consueta pagina della Domenica, esce anche al sabato, ma appunto anche la domenica, Sport e Business. Oggi è dedicata tutta al calcio e alla Federazione Italiana Gioco Calcio, la FIGC, che sta per scegliere il suo nuovo presidente. Quindi la FIGC sceglie tra Carlo Tavecchio e Andrea Bodi, che sono i due candidati. Domani la contesa elettorale tra il numero uno della Federcalcio e l'ex presidente della Lega DB. Un altro, dicevo, a pagina 19 trovate tutto l'articolo di Francis Fukuyama, che lo ricordiamo appunto, il suo libro più famoso è La fine della storia del 92, dove si ipotizzò anche questo scontro di civiltà, una frase che poi è stata usata moltissimo. Vi segnalo una bellissima intervista, pagina 11 del Corriere, a Marta Nussbaum, che è una filosofa, spesso è intervenuta anche sul nostro domenicale. E abbiamo detto di Trump, che ci sorprende tutti con le sue dichiarazioni. Molti sono preoccupati, sapete che ci sono state molte proteste, ci si preoccupa su tantissimi fronti, non solo su quello dei visti negati a persone di 7 paesi. Adesso forse questo potrebbe essere rivisto. In ogni caso suscita molta paura questa chiusura dell'America, che tutti siamo abituati forse un po' pigramente a considerare il melting pot. E Marta Nussbaum dice: che in campagna elettorale aveva supportato, era dalla parte di Hillary Clinton, dice: i valori americani non sono tramontati, vedo troppi pessimisti, io invece in giro vedo compassione. La filosofa in controtendenza, la paura dipende dai rapidi cambiamenti, però dice: ho fiducia comunque che non ci sarà alcuna deriva così antidemocratica negli Stati Uniti. Vi segnalo anche un articolo di Guido Santevecchi, la notizia l'ha trovata anche su altri giornali, su questo annuncio fatto a Pechino che farà crescere la spesa militare del 7%, e pensate che viene considerato poco. Immaginate comunque cos'è un più 7% su una spesa militare di un colosso come la Cina, e è pari appunto a 148 miliardi di dollari. È questa la spesa messa a bilancio per il 2017, in crescita appunto del 7% sul 2016. È vero che è solo, tra virgolette, l'1,3% del PIL, mentre negli Stati Uniti la spesa militare è il 3,3%. E poi vi segnalo, perdonatemi, sapete che i temi che riguardano gli animali mi affascinano sempre molto. C'è un'iniziativa che parte domani con il Corriere della Sera, con il quale si potranno comprare libri sugli animali. Per introdurre questa iniziativa, Danilo Mainardi, forse il più grande etologo che abbiamo in Italia, ci racconta, perché il primo libro è dedicato ai cani, vi racconto il cane vero, sa fingere ed è intelligente, ma deve fare le sue esperienze con un padrone non oppressivo. Ancora altre cose, abbiamo parlato brevemente della questione del testamento biologico, comunque di tutti questi problemi etici enormi che spesso vengono liquidati con degli slogan. Ieri c'è stata una tragedia a Firenze, perché un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie e la figlia disabile, non sono più in grado di assisterla. Perché lo collego comunque alla questione etica del testamento biologico, c'è un bellissimo commento di Michela Marzano: la solitudine di un genitore con la paura del dopo, cioè quando genitori anche anziani si sono occupati per tutta la vita di un figlio, di un familiare disabile, avanzando l'età, naturalmente una delle grandissime preoccupazioni è visto che a me rimane poco tempo, ma almeno dal punto di vista biologico a mio figlio ne rimane di più, chi si occuperà di lui quando non ci sarò più io? Vi segnalo dal Messaggero, prima di passare ai supplementi domenicali, un approfondimento sulla vicenda Alitalia, l'infinita vicenda Alitalia. Si sta ancora cercando di trovare una soluzione, c'è uno schema che fa paura delle perdite accumulate dal 2009 al 2016 dalla nostra ex compagnia di bandiera. Soltanto nel 2011 scesero un pochino, a meno 69 miliardi di euro, e adesso siamo a meno 500 nel 2016, ed è solo una stima. Alitalia, le banche blindano il piano. Ci fermiamo però un attimo per un'ultima pausa sul traffico e poi appunto passiamo ai supplementi domenicali. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli per l'ultima parte della nostra rassegna. Per par condicio, prima di passare ai supplementi domenicali, visto che ho segnalato l'articolo di Danilo Mainardi sul cane, ve ne segnalo un altro bellissimo sul Libro a pagina 16. Anche questa è la recensione di un libro, il libro si chiama Il tuo gatto è un genio, punto interrogativo, e lo scrive Daniela Mastro Mattei, recensendo appunto questo libro che è tra il serio e il faceto, ma secondo me è più serio che faceto, e perché c'è un test per misurare la sua reale intelligenza. Il quoziente intellettivo di un felino, ma naturalmente con dei parametri che non sono quelli che useremmo per il quoziente intellettivo di un essere umano. È molto divertente. Io naturalmente oggi pomeriggio corro in libreria a comprarmi questo libro. Ma passiamo alla domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che si intitola Donne. Mancano pochi giorni all'8 marzo, che è la festa della donna, la citazione scelta da Gianfranco Ravasi è di uno scrittore francese, Romain Rolland, ed è questa: gli uomini fanno le opere, ma le donne fanno gli uomini. E scrive Ravasi: non ho mai avuto il coraggio di leggere il suo romanzo fluviale Jean Christophe. disteso in ben 10 volumi tra il 1904 e il 1912, ma la figura dello scrittore francese Romain Rolland, morto nel 1944, mi ha sempre incuriosito. Il suo genio eclettico lo faceva diventare ora scrittore, ora musicologo, ora filosofo, ora critico letterario e artistico, ora politico, e gli concedeva anche l'alloro del Nobel nel 1915. Di quel monumentale romanzo, biografia di un immaginario musicista renano parigino, mi è stata segnalata questa bella frase che dovrebbe smitizzare le classificazioni che privilegiano il genio maschile. Sì, è vero, ci sono i capolavori letterari, artistici, musicali, architettonici elaborati da uomini, ma quella meraviglia che è la creatura umana è plasmata e sboccia dal grembo di una madre. Perciò è legittimo il canto dell'antico poeta ebreo, il salmista: sei tu, o Dio, che mi hai intessuto grembo di mia madre, ti rendo grazie perché mi hai fatto un prodigio stupendo. Il memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, riprende la figura di Gabriele Pescatore, che è morto di recente, tra l'altro aveva 100 anni, è morto in luglio, era nato nel 1916 e è stato un grande magistrato, ma soprattutto è stato per oltre un ventennio guidò la Cassa delle Grandi Opere, viene definito un meridionalista nel senso migliore del termine, cioè un uomo che ha dedicato la sua vita a colmare il gap tra il nord e il sud del nostro paese, e Roberto Napoletano lo mette insieme grazie a una lettera che gli ha scritto un lettore, Sergio Zoppi, lo affianca alla figura di Giulio Pastore, che invece era un sindacalista, era nato a Genova, quindi un uomo del nord, che però fu anche ministro del Mezzogiorno, e dice, conclude Roberto Napoletano, oggi più di allora c'è di che riflettere sulle virtù e gli errori del passato, perché la divaricazione in atto tra le due aree del paese sotto tutti i punti di vista preoccupa e va fermata. Pastore e Pescatore non ce lo perdonerebbero. Come sempre alla domenica, ormai siamo arrivati al numero 18, c'è qualcuno che sa leggere, le quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli, e l'articolo principale di Paolo Legrenzi, i bambini intelligenti sbagliano di più. Un esempio di errore linguistico geniale è quello che consiste nello scambiare condizionale per congiuntivo, e magari si viene appunto apostrofati di essere scorretti e sgrammaticati, e invece secondo alcuni studi, racconta Paolo Legrenzi, che è autore di questo libro La Mente, appunto a volte questi strafalcioni indicano in realtà un cervello che è attivo su altri fronti. Ho fatto una mia mancanza, chiedo perdono, in realtà non ho parlato del titolo vero e proprio della copertina del domenicale. La rivoluzione partì dalle russe, perché Emilio Gentile racconta che nel 1917, nella festa dell'8 marzo, dal pacifico corteo di operai e studentessi e borghesi ebbe inizio la protesta che condurrà all'insurrezione popolare contro l'autocrazia. Sempre dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un altro articolo di Gianfranco Ravasi, perché c'è stato un congresso in Vaticano sulla musica sacra, sfido chiunque insomma a non sentirne il fascino, soprattutto se ascoltata in chiesa, e il titolo dell'articolo, che poi è anche la recensione di due libri con Mozart di Claire Coleman e Fernando Ortega, e Springsteen in classe di Andrea Monda. Polifonie per la gloria di Dio. Il congresso in Vaticano sulla musica sacra e alcuni saggi sulla dimensione spirituale delle composizioni, da Mozart appunto a Bruce Springsteen. Il supplemento della domenica del Corriere della Sera, La Lettura, qui siamo arrivati al numero 275. Quindi ormai sono più di 4 anni che c'è, e come sempre la copertina è affidata a un artista, questa settimana è Irma Blank. Dall'interno vi segnalo un articolo di Dario Di Vico, che prende spunto da alcuni libri. L'articolo si intitola L'elefante della diseguaglianza e valuta un po' il PIL del mondo da quando è iniziata sostanzialmente la globalizzazione. Questa curva detta di Milanovic, che è uno studente, un economista, dimostra che la globalizzazione ha favorito gli abitanti dei paesi in via di sviluppo, perché per quanto enormi e spaventevoli i numeri sulle persone che ancora ogni giorno muoiono di fame, però sono meno di alcuni anni fa. Però le classi medie occidentali, sì, evince da queste statistiche, ci hanno rimesso, al contrario dei ceti più ricchi, che invece sono diventati sempre più ricchi. Una storia bellissima raccontata da Angelo Ferracuti a Tokyo è il ritratto di Yoshiyuki Morioka, che è un libraio di Tokyo, che ha fatto questa scelta. Io avevo letto questa storia già, però mai un reportage così attento e che scenda nei particolari, Lui si è inventato un nuovo modello di business, cioè lui propone ogni settimana solo un titolo ai suoi clienti lettori, però nella sua libreria ci sono anche esposizioni d'arte, di fotografie e offre anche del vino. È un successo. Questa settimana la scelta era toccata a volumi di haiku, quelle brevi poesie giapponesi, e appunto il titolo di questo bellissimo ritratto: vendo un libro alla settimana. Vi segnalo poi il supplemento della Repubblica della domenica Robinson questa settimana, che anche qui è recente, questo è il numero 14. La copertina si intitola La natura della felicità e all'interno si parla di molti libri che di questo parlano, e anche l'avevamo citato già anche nelle settimane scorse, di Tim Lomas, che è un insegnante di psicologia positiva all'Università di East London e che ha raccolto su internet in questo progetto che lui chiama The Positive Lexicography, una raccolta di parole intraducibili per descrivere la felicità. Vi segnalo, ultimissima segnalazione, la copertina di Macro, che è il supplemento culturale del Messaggero, non solo domenicale ma tutti i giorni, che è in realtà un bellissimo reportage di Luigi Avantaggiato da Erbil, intitolato Noi guerriere curde, Cipria e Kalashnikov. Determinate, forti ma anche femminili, ecco le reclute peshmerga addestrate da soldati italiani nel campo di Atruj. Giovani donne segnate dalla violenza di Daesh. Ci hanno tolto tutto, ma non siamo schiave e non abbiamo paura. Era l'ultima segnalazione per oggi, grazie a tutti gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi, grazie ad Andrea Roccabella in regia, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.